giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Nuovo spazio di ascolto e approfondimento insieme alle frequenze di Blu Radio Veneto. Ben ritrovati da Mirko Cavallin e di Daici in regia. Oggi torniamo a Cittadella, dove le parrocchie del Vicariato hanno promosso il progetto Cittadella Ascolta sul tema La speranza scartata. Dopo le conversazioni con il regista Pupi Avati e con Agostino Burberi, che ritrovate sul nostro sito bluradioveneto.it, oggi ascoltiamo la voce, l'intervento del professore Enrico Letta, già primo ministro, attualmente docente della Paris School of International Affairs e presidente dell'Istituto Jacques Delors. Letta ha sviluppato l'argomento dell'inclusione sociale, sogno o necessità? Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Io sono uscito dalla politica qualche tempo fa, però la politica mi ha insegnato tantissimo. La prima cosa che mi ha insegnato la politica è stata nel primo incontro politico da candidato che feci quando ero ragazzo. Fui candidato in un'elezione in cui ero messo in fondo alla lista perché ci voleva il giovane a quel tempo. Mi mandarono nel più piccolo comune della provincia, vengo da Pisa, sono toscano, e c'era il comune più piccolo e più lontano che ci fosse proprio da Pisa. Qui era praticamente a Grosseto, Monteverdi Marittimo si chiama, sono solo cinghiali praticamente. E andai, organizzai, avvertì che stavo arrivando, ero il candidato, quindi ero molto preso da me stesso, da questa mia prima avventura. E comune di 500 abitanti. Il segretario locale, gli toccava organizzare questo incontro, questo sconosciuto che arrivava da lontano, tira via, chiama 10 persone, venite, tocca. Io arrivo, mi ero preparato il discorso tutto, e gli dico: a quanto tempo posso parlare? L'incontro erano le 7 del pomeriggio, e lui mi fa: guarda, tu sei il candidato, tu puoi parlare quanto vuoi, noi all'8 si va a cena. Quel momento mi ha dato il senso profondo di che cosa vuol dire l'importanza di capire, attraverso il fatto che la politica vuol dire sempre rapportarsi agli altri, che non si è soli, che dipende tutto dagli altri e che bisogna sempre essere in interazione con gli altri. Quindi io questa sera vi proporrò qualche riflessione che viene da quello che sto pensando, riflettendo in questo periodo, quello che ho imparato in questi 2 anni fuori. Vi ringrazio moltissimo di questa occasione che mi date, e in particolare di essere con i ragazzi, con gli scout. Quello che abbiamo sentito ho trovato molto bello, molto interessante, molto forte, ci fa riflettere. E naturalmente anche questa idea di riflettere sulla cultura dello scarto, che io declino a questo modo nella mia riflessione. Per applicare quest'idea, per dare seguito anche a quello che il Papa dice, credo che ci sia bisogno di una cosa fondamentale, che è quello che ci manca forse di più nel tempo di oggi. Il tempo di oggi è un tempo nel quale abbiamo una moltiplicazione di sollecitazioni nella nostra vita continua. Se ci pensiamo bene, rispetto a qualche anno fa, ognuno di noi fa 30 cose insieme. I nostri figli, io mi ci arrabbio ogni volta, fatene una per volta, santo Dio. Non è possibile fare una cosa per volta, se non se ne fanno 3 insieme, continue sollecitazioni, uno fa 3 conversazioni insieme, tutta una sollecitazione continua. E tutto questo ci fa perdere di vista quello che secondo me è la caratteristica fondamentale per applicare quest'idea, che trovo forte, bella, e che può essere veramente, se moltiplicata, l'idea risolutrice non soltanto di tanti eventi delle nostre comunità, ma può essere anche portata a livello molto più alto. E la questione centrale è la attenzione. Se noi siamo in grado di dimostrare attenzione nei confronti di che cosa? di capire i fenomeni che accadono e di capire soprattutto come noi, con quello che siamo, semplicemente mettendo in contatto, tante volte basta semplicemente mettere in contatto. La cultura dello scarto ha un elemento fondamentale nel mettere in contatto. Perché? Perché ciò che a me non serve, ma c'è qualcuno a cui quello che a me non serve serve. Il problema è sapere chi. Il problema è mettere la testa attenta, l'attenzione, la concentrazione, non perdersi rispetto a questo flusso continuo, che invece è l'elemento col quale oggi viviamo. Elemento che ci fa cambiare tante volte anche il modo di essere della nostra vita, un elemento che ci modifica, che ci fa arrivare tante sollecitazioni, lo dicevo prima, che spesso e volentieri ci fa perdere anche il segno e il filo delle cose che facciamo. Quindi il primo punto della mia riflessione è questo: come si fa oggi nella propria testa a dimostrare attenzione e quindi a fare delle priorità, a mettere delle priorità che ci consentono di capire che io non mi voglio sostituire a chi fa la predica la domenica, ma io penso di portarmi dietro una delle cose che ho ascoltato di più da ragazzo. Era il mio direttore spirituale che mi diceva: ricordati sempre che il peccato di omissione è peggio del peccato di azione, perché te pensi che non sia grave, invece è grave uguale, perché nella omissione, nel fare qualche cosa, tu ci metti tanta, alla fine, cattiveria ipocrita, perché magari sai che potevi fare e hai girato la testa da un'altra parte. L'attenzione per me è questo soprattutto, e l'attenzione vale soprattutto in politica. Io declinerò molti di questi ragionamenti per la cosa che ho conosciuto di più nella mia vita, la cosa che conosco di più, quindi l'attività politica. L'attività politica vuol dire il rapporto con gli altri, alla fine. E il girarsi dall'altra parte, il non guardare e quindi il non applicare ciò che invece con un minimo di ritorno, attenzione, mettendo in contatto persone, finisce per essere l'elemento che scatena energie positive. Questo secondo me è uno dei punti essenziali e centrali del tempo che noi oggi abbiamo, la capacità di darci un rigore interiore, e in questo senso la comunità secondo me ha un valore aggiunto perché ci deve aiutare. Darci che cosa? Darci quel rigore interiore per capire che se le cose si fanno in un flusso continuo, senza fermarsi e mettere l'attenzione, si finisce per non essere in grado di capire che cosa sta succedendo, di capire soprattutto che cosa si può fare, semplicemente creando per esempio un contatto che tu puoi creare perché tu hai un'informazione, conosci e quindi puoi mettere insieme, e che altri non hanno, e che se non lo fai non succede, non metti in contatto un bisogno con qualcuno che può dare rispetto a quel bisogno. Secondo me questo oggi, nel tempo che stiamo vivendo, probabilmente è la cosa principale, perché tutto questo avvenga siamo chiamati a uno sforzo che ci richiama un'altra parola, una seconda parola che metto al centro della mia riflessione, che è la parola educazione, che è la parola forse oggi più importante di tutti. Io sono... mi ritengo una persona fortunata, perché oggi la mia vita è concentrata attorno a un impegno professionale che è un impegno legato alla parola educazione, quindi a lavorare con studenti, a lavorare e accogliere da loro sollecitazioni, idee non semplici, complesse, perché io lavoro con studenti che vengono da 105 paesi del mondo, in un ambiente nel quale anche soltanto farli capire tra di loro non è semplicissimo, in un ambiente in cui dovendo comunicare con ognuno di loro, per me è una grandissima esperienza il dover togliere una serie di cose scontate che nella mia riflessione ho sempre fatto. Quando io parlo di Europa, io vado col pilota automatico, nel senso che di Europa siamo europei, sappiamo di cosa parliamo. Quando parli a un cinese d'Europa, sei costretto tu stesso a rimodificare le cose scontate, perché non è la stessa cosa parlare di Europa a un cinese e parlare di Europa tra di noi. E questo vale per il cinese, ma ovviamente potrei farvi moltissimi esempi. In un tempo in cui l'educazione, che è appunto questa seconda parola che volevo insieme a voi sviluppare oggi, è oggi probabilmente la più difficile, la più complessa, ma probabilmente la più importante delle attività dell'uomo. Perché? Perché se c'è una cosa che sta cambiando nelle nostre vite è l'accelerazione continua del cambiamento. Mi può sembrare una frase che non ha senso quello che ho appena detto. Cosa cambia? Cambia l'accelerazione del cambiamento. E invece è così. Io credo che la cosa principale di cui tutti ci rendiamo conto è non che siamo in difficoltà, siamo spaesati in generale per la globalizzazione, che sì, cambia le cose, cambia la nostra vita. La verità è che siamo spaesati oggi dalle accelerazioni che sono in corso negli ultimi, soprattutto 3, 4, 5 anni, che ci danno l'idea che queste accelerazioni non sono diventate una cosa capita una volta per tutte, ma ormai la nostra vita è in un'accelerazione continua. E quello che capita attorno a noi, basta semplicemente, io non so qual è la vostra reazione di fronte ai diversi livelli di progresso tecnologico che entrano nelle nostre vite. Io percepisco in giro una reazione di profonda ansietà che tutto questo mette. Ed è un'ansietà che non faceva parte delle nostre vite nelle fasi precedenti di sviluppo tecnologico e che oggi invece è entrata a produrre ansietà. Anzi, prima i meccanismi di progresso accompagnavano le nostre vite quasi tenendoci per mano in modo positivo, semplice. Pensate che cos'erano le nostre vite negli anni 60, 70, 80, chi di noi c'era, sapeva che cosa voleva dire il progresso. Il progresso in quegli anni era un progresso che era fatto di passi graduali, lenti, ma sicuri. Io dico sempre che la migliore immagine per raccontare quel tipo di progresso era la Fiat. Perché si cominciava con la 500, poi si saliva con la 600, poi si andava alle 124, poi dopo la 125, poi dopo, quando le cose erano andate veramente bene nella famiglia, si arrivava alla 130, fino alla 131 e poi al momento della pensione, la 132 Super Mirafiori era il segno proprio della... il raggiungimento di tutti i risultati. Era questo senso che ti accompagnava per tutta la vita, è stato così per generazioni intere ed è così in Italia, ma la stessa cosa vale negli altri paesi. Noi avevamo la Fiat con i 100 e questo senso di un passaggio dopo l'altro scandiva questo ritmo e lo rendeva anche un ritmo che ci dava la tranquillità necessaria di capire che il progresso avevamo la possibilità di dominarlo, ci dava qualche cosa. Ed è tutto questo che ha creato le nostre società coese e la classe media che era il cuore di questa società. Classe media che era la classe media che riusciva ad agganciare la propria attività professionale, la propria coesione della propria famiglia a questa realizzazione che era data da un passo dopo l'altro. La nostra società, l'Italia, le nostre società europee, le nostre società occidentali hanno vissuto di questo. Non soltanto le nostre, gli Stati Uniti la stessa cosa, in modo diverso, ma alla fine tutto questo ha raccontato e in tutto questo la coesione e il sapere che bisognava stare dentro questo ritmo. Adesso il progresso ti arriva in una dimensione che è esattamente rovesciata, nel senso che quella tranquillità del passaggio della Fiat da 128 a 130, 131, adesso hai esattamente l'ansia che ti viene dal fatto che hai appena imparato come funziona l'iPhone 5 e ti arriva l'iPhone 5S e devi poi passare al 6 perché se sei rimasto al 4 ti tolgono anche tutti gli strumenti e devi andare nelle bancarelle a trovare gli strumenti perché te li hanno eliminati tutti perché ti obbligano a passare al 6, ma per passare al 6 devi aver imparato a usare il 6 e hai imparato a usare il 6 e ti arriva la nuova app con il 7. E tutto questo è un meccanismo di ansia che crea il senso di un'idea di progresso che è diversa da quella che abbiamo vissuto fino ad oggi. Con in più il fatto che le nostre famiglie, sono famiglie nelle quali c'è uno scarto generazionale pesante, l'umiliazione che le nostre generazioni hanno, il fatto di vedere i propri figli che ti guardano come un dinosauro e arrivano lì e con un fare, come per dire, insomma, non capisci proprio niente, ti smanettano una cosa, ti sistemano quello che sei lì che stai cercando da, ore di sistemare e ti rendi conto della differenza, la differenza digitale, la differenza di tocco, quando vedi un bambino di 3 anni che va alla televisione e comincia a cercare di spostare le cose sullo schermo della televisione e tu dici guarda che si fa col telecomando e ti rendi conto della differenza di approccio a tutte queste cose, il cambiamento che tutto questo comporta e il senso di ansia che tutto questo comporta, che è un'ansia alla quale applichiamo poi criteri un pochino più ampi, perché fino a qualche anno fa ci eravamo raccontati che il progresso tecnologico creava tanti posti di lavoro quanti ne toglieva, ne creava di diversi e alcuni se ne andavano, e oggi invece queste forme di accelerazione che stiamo vivendo ci fanno capire che non è vero questo, nel senso che il progresso tecnologico è straordinariamente positivo, ma la fine di posti di lavoro è purtroppo molto superiore e improvvisa della creazione di nuovi posti di lavoro, e hai davanti la percezione che tante dinamiche che fanno parte della nostra vita quotidiana e del fatto che noi usiamo 1000 strumenti che usandoli certificano la fine di una serie di lavori, e in una dinamica che oltretutto è molto diversa dal passato, perché è una dinamica nella quale, e qui la difficoltà di chi fa politica, la difficoltà del sindacato, la difficoltà di chi dà regole, non è come era prima, cioè il progresso è bene, è positivo, e chi rimane indietro perché faceva un lavoro che è superato dal progresso, lo si aiuta a riorganizzarsi, però bisogna farsene una ragione, nel senso che se il giornale lo si fa in modo elettronico, non è che si possono tenere i linotipisti e pagare i linotipisti, semplicemente li si accompagnano alla pensione o si riciclano in un altro modo. Questo era lo schema del progresso di prima, un problema di welfare sostanzialmente. Il problema del progresso di oggi è molto più complicato, perché se io vi chiedessi a questa sala, adesso discutiamo insieme chi ha ragione, se hanno ragione gli Airbnb o se hanno ragione gli alberghi, cioè se ha ragione chi protesta contro gli Airbnb, coloro che si scambiano attraverso questa fantastica piattaforma appartamenti e quindi riescono, chi dà il suo appartamento, a farci un guadagno con un bene con il quale prima non faceva nessun guadagno, chi vuole viaggiare lo fa con un costo inferiore rispetto ad andare in albergo e con una scelta immediata senza intermediazione di nessuno, oppure ha ragione chi lavora in un albergo e che improvvisamente si trova il suo lavoro deprezzato da un meccanismo in cui è saltata l'intermediazione, ma sapendo che gli alberghi sono comunque necessari e utili, non è che non c'è più bisogno degli alberghi. Chi ha ragione di due? Io penso che sia il classico caso, come ormai la moltiplicazione di queste vicende ci dice, che siamo un po' come in nella tragedia greca di Antigone, cioè hanno entrambi ragione e tu devi arbitrare e trovare formule complesse per cercare di far coesistere due ragioni e accompagnarle verso una situazione che è nuova, complicata, totalmente non prevista da nessuna procedura precedente. Tutto questo l'ho inserito nella parola educazione, perché tutte queste vicende hanno un senso e possono trovare delle forme di applicazione di idee solamente se esiste un surplus di educazione che oggi mettiamo nelle nostre società, perché se c'è una cosa certa è che oggi chi è privo di educazione di fronte a queste dinamiche è lentamente piano piano messo da parte, mi verrebbe dire scartato, ed è un modo di scartare duro, molto duro, e rispetto al quale il meccanismo all'opposto che viene fuori della competizione nell'educazione è un meccanismo che anche questo crea grande spavento. L'università nella quale lavoro ha rapporti con molte università del mondo, in particolare con quelle asiatiche. Mi è capitato negli ultimi 2 anni di appunto fare viaggi per rappresentare la mia università e andare a fare delle cose in comune con altre. 8 su 10 di questi viaggi fuori dall'Europa li ho fatti in Asia, per dare il senso di dov'è sempre di più ormai che sta andando il mondo. E la cosa che mi ha impressionato è sentire il racconto degli omologhi coreani del sud ovviamente, che hanno dovuto mettere delle regole per obbligare, trovare il modo di rendere obbligatorio il fatto che i ragazzi da mezzanotte alle 7 del mattino non devono studiare. Ripeto, da mezzanotte alle 7 del mattino non devono studiare e devono dormire, perché il meccanismo competitivo del sentirsi con la necessità di non perdere il ritmo delle novità e quindi continuare a chiappare un pezzo di educazione dopo l'altra è arrivato a un tal punto che in quei paesi i tempi di studio sono tempi di studio che vanno fino a mezzanotte, anche oltre, poi la giornata dopo ricomincia, meno male che siamo in Italia, non è? Tutto questo per dire che io lo vedo, io ho tanti studenti cinesi in classe, ti rendi conto che il modo col quale sono stati inseriti dentro meccanismi di educazione è un modo per il quale gli è stato chiaramente detto che per loro, che sono dei privilegiati, cioè fare un'educazione all'estero per loro è un elemento di privilegio, per cui non c'è, come dire, da condividere questo privilegio con momenti di divertimento, bisogna che siano totalmente concentrati su questo. Queste sono le estremizzazioni, però sono le estremizzazioni di un mondo che va in questa direzione, rispetto al quale il concetto di educazione però rimane oggi quanto di più importante e centrale. Perché? Perché l'educazione intanto oggi si trova a dover, trova a essere competitiva, a dover competere con dei competitor nuovi, completamente nuovi. Il primo competitor di qualunque professore ha lo stesso nome e si chiama Google, ed è un competitor terribile, perché sa molto di più di qualunque professore, nel senso che uno chiede a Google e Google ti dà la risposta di qualunque informazione tu abbia bisogno. E se l'educazione la concepiamo come un trasferimento di informazione, l'educazione è morta, è finita, non ha più senso di esistere. Per quello c'è Google, figuriamoci, Wikipedia, poi non ne parliamo nemmeno. Io ogni tanto, quando abbiamo le esercitazioni in classe, poi vai a vedere, vabbè, queste sono le esperienze che faccio tutti voi abbiate, chi fa l'insegnante lo ha, uno poi va a rivedere il testo e guarda caso trovi molte similitudini negli svolgimenti che vengono fatte, perché alla fine tutti sono andati a vedere Wikipedia cosa ha scritto su quel testo. Una fatica abbastanza impressionante rispetto a questi meccanismi, ma il concetto per il quale appunto l'educazione non è il passaggio dell'informazione oggi, perché il competitore Google è un competitore imbattibile, ma Google ti passa l'informazione, ma Google non ti dà la bussola nella vita, e questo richiama un ruolo totalmente diverso dell'educazione, e ce lo lega a quel concetto di attenzione che dicevo prima. Perché tu puoi avere tutte le informazioni di questo mondo e puoi essere disattento, anzi non è nessuno stimolo a essere attento al bisogno e a capire come connettere il bisogno. Altra cosa è il ragionamento, se hai in testa l'idea che proprio nel tempo di oggi, al tempo di Google e di Wikipedia, l'educazione è un'altra cosa, l'educazione è la bussola, l'educazione è la stella polare, ed è un'educazione, una bussola, una stella polare che è fatta oggi, essendoci questa competizione durissima, non solo di Google, ma di qualunque altro meccanismo che hai attraverso internet, in cui devi studiare forme accattivanti. La lezione frontale è finita. La lezione frontale è finita. Se non abbiamo capito questo, saremo trascinati. È finita. La lezione frontale, che è quella nella quale tutti quelli che hanno fatto l'università, nel periodo in cui l'ho fatta io, la lezione frontale era quella in cui si combatteva per trovare il posto in aula, e poi una volta occupato il posto in aula si aspettava l'arrivo del professore, che scendeva con uno stuolo di assistenti e poi calava il verbo del professore, si prendeva appunti, se uno aveva perso una parola doveva andare. Se poi la lezione non era piaciuta, uno non era contento della lezione, non cambiava niente, il professore rifaceva esattamente la stessa cosa l'anno successivo, la volta dopo, eccetera. L'esperienza universitaria che sto facendo è un'esperienza nella quale i professori si cambiano se la valutazione degli studenti è negativa. che se la ripenso con gli occhi miei di studente, mi dà il senso del mondo alla rovescia. Noi abbiamo uno schema per il quale se la valutazione degli studenti è sotto il 60%, quindi dopo il 6, al professore viene dato un'altra chance, quindi nel semestre successivo, se viene confermato che è sotto il 60%, parlo non dei professori di ruolo, parlo metà dei nostri professori sono persone che vengono da esperienze sul campo, ex diplomatici, ex commissari europei e cose di questo genere, e vengono giudicati con questo meccanismo. Lo studente ha il potere di scegliere. Dicevo, lezione frontale finita, educazione che deve scegliere piste nuove perché deve competere con internet. Quando i nostri figli tornano a casa e accendono, trovano cose che li sollecitano molto di più rispetto alla lezione che hanno ascoltato. E o la lezione diventa più interessante, usa metodi coinvolgenti, l'innovazione pedagogica, che trovo oggi essere una delle cose più interessanti. A me capita tre esperienze che vi racconto, che mi hanno molto fatto riflettere in questi due anni di lavoro che sto facendo. Una è un'esperienza che stiamo facendo con un'università americana, due classi di 15 studenti, 15 da noi e 15 ad Atlanta, in Georgia, a Georgia Tech, che è un'università molto avanti su queste cose, e le due classi fanno lezione contemporaneamente in due aule che si vedono. I 15 più 15 non si sono mai incontrati, ma sono sempre stati insieme per tutto l'anno, perché si sono parlati, si sono scambiati idee, hanno vissuto con due professori, uno a Parigi e uno ad Atlanta. Questi due professori hanno ovviamente organizzato il loro lavoro precedentemente, e queste due classi, stando fisicamente ognuno nel suo posto, hanno fatto un'esperienza doppia, straordinaria, perché si sono scambiati i punti di vista su come vedere vari fenomeni con due esperienze completamente diverse. E gli studenti che partecipano a quel corso hanno uno stimolo in più, perché partecipare a quel corso sapendo che in quel momento dall'altra parte dell'Atlantico stanno facendo l'esperienza con altri che non sono fisicamente con te, oppure un'altra esperienza che stiamo cercando di immettere, che abbiamo trovato avere un grande successo in un posto che per noi è lontanissimo, ma l'innovazione su questo punto l'ho trovata geniale. Singapore, un'università all'avanguardia, ha lanciato questa idea. Quando io facevo l'università, io facevo lo studente, andavo a lezione del corso di economia e c'avevo davanti a me un economista che mi raccontava l'economia. Poi finiva l'ora, cambiavo e andavo a lezione di diritto e c'avevo un giurista che mi raccontava il diritto. Poi finivo e andavo a politiche sociali, l'esperto di welfare che mi raccontava il welfare. Nella mia testa dopo dovevo fare le connessioni tra questi mondi diversi e alla fine la mia testa non era assolutamente preparata a queste connessioni. Quando poi mi sono trovato nelle mie attività successive a dover capire la complessità, e la complessità è sostanzialmente che tutti e tre hanno ragione quando ti presentano lo stesso problema visto da un punto di vista diverso, solo che tu, se sei sindaco, per esempio, se sei uno che deve prendere decisioni, devi mettere insieme tre punti di vista diversi tra di loro, molto complessi da mettere insieme. Hanno lanciato questo master nel quale gli studenti hanno contemporaneamente davanti un giurista, un economista e un esperto di welfare, i quali affrontano direttamente, tema per tema, i temi, per esempio il tema dello sviluppo urbano. Affronta il tema dello sviluppo urbano ascoltando la parola dell'economista, del giurista e dell'esperto di welfare. Immediatamente cogli la complessità dei fenomeni, e il cogliere la complessità è un elemento in più che nessun'altra dinamica riesce a dare. Oppure la terza cosa che a me lascia molto sperare per il nostro paese è la questione delle simulazioni. La simulazione è importante quanto la trasmissione orale di un qualunque messaggio. La simulazione è un modo nel quale lo studente capisce perché sta praticando. E la cosa che io trovo straordinaria, per me italiano, è quella che mi diverto sempre a fare le simulazioni, a fare, a dare un problema da simulare, negoziati internazionali, cose di questo genere, e crei dei gruppi con studenti che vengono da tutte le parti del mondo. Ed è sempre così. Io gli faccio, a metà della simulazione, gli cambio in corso d'opera un dato del problema, per vedere come reagiscono a una crisi. La crisi, perché la vita è fatta di crisi ormai, non è una vita nella quale tutto funziona secondo gli ordini prestabiliti. E quando cambi un dato in corso d'opera del problema, se hai una classe fatta tutta di cinesi, si fermano. Se hai una classe fatta tutta di americani, si fermano. Se nel gruppo c'è un italiano, quell'italiano, abituato alle crisi, affronta il problema, lo risolve e si riesce ad andare avanti. È impressionante questa cosa, ma funziona così, sempre, sempre. È una cosa che a me dà un profondissimo senso di fiducia per il nostro futuro. Nel senso che siccome siamo in un tempo nel quale la normalità non esiste più, siamo in un tempo nel quale viviamo la crisi permanente, una successione di crisi sostanzialmente. La nuova normalità è la crisi. La nostra capacità come italiani a avere spirito di adattamento, avere flessibilità, prontezza e reattività è secondo me uno dei grandi vantaggi del tempo che stiamo vivendo. Il problema di fondo è che dobbiamo essere in grado, perché noi, ognuno di noi, diciamo, gli italiani se la cavano, il problema è l'Italia, questo normalmente, ed è così, cioè dobbiamo passare dall'idea che questo spirito lo metti individualmente rispetto a un ragionamento invece più complesso e più decisivo. L'educazione quindi, perché l'educazione oggi è quell'elemento appunto che ti consente di essere competitivo rispetto a quelle altre dinamiche e che ti consente allo stesso tempo di capire, di essere pronto a applicare quell'idea di attenzione che citavo prima, perché quell'idea di attenzione ti fa la differenza rispetto a ciò che, senza riuscire a fare le connessioni, semplicemente non riesci a fare. La cultura dello scarto è una cultura che ha bisogno di connessioni, perché se tu non metti in connessione chi ha bisogno e chi può dare, semplicemente finisci per creare un meccanismo nel quale nessuno dei due è soddisfatto perché nessuno dei due incontra quello giusto. Tu, con un minimo di attenzione, sei in grado di far incontrare due che sono insieme in grado di far scattare quel meccanismo in cui io ho qualcosa di più, lo do a te che hai qualcosa di meno e viceversa. Ma c'è bisogno di qualcuno che sappia che io ho qualcosa di meno e tu hai qualcosa di più e che possiamo insieme trovare il modo di incontrarci. E ritengo questo il punto fondamentale. Il terzo elemento, la terza parola, e poi mi fermo e ne parliamo insieme, e sarò contento di parlarne insieme, è dentro tutti questi meccanismi, intorno a queste riflessioni, intorno a queste due parole, noi dobbiamo oggi rilanciare, riflettere attorno a una parola antica, oggi una parola dal conio un po', diciamo, poco attuale, poco, che è la parola bene comune. Parola antica perché siamo stati tutti educati all'idea e alla primazia del bene comune. Parola oggi, parola astratta per certi versi, perché poi tutti i messaggi che ci arrivano da tutte le sollecitazioni della nostra vita, tutti i messaggi pensa a te stesso. Lavora per il tuo successo, lavora per essere meglio, lavora per essere più bello, lavora per essere tutto ciò che è, per essere più performante, per essere più magro, per essere tutti i messaggi che ci arrivano quotidianamente su questo tema. E la questione del bene comune, di che cosa vuol dire bene comune, che quindi è quel concetto che nella Evangelii Gaudium è bellissimo, no? La parte è inferiore al tutto, cioè il tutto non è la somma delle parti, il tutto è di più. E questo concetto, che è un concetto semplice a dirsi, rivoluzionario nella sua essenza, cioè l'idea che non è uno più uno fa tre, no? Fa molto di più, alla fine. Se siamo in grado di rispettare, ovviamente, nel tutto il bene comune e degli obiettivi rispetto ai quali bisogna operare. È un bene comune che alla fine probabilmente l'immagine più forte, l'immagine migliore rimane sempre quella classica della storia di Giuseppe e del faraone, che alla fine è la storia del bene comune, la storia biblica nella quale si racconta il bene comune. Chi è portatore del bene comune? È Giuseppe, portatore del bene comune. Perché è portatore del bene comune? Perché Giuseppe innanzitutto guarda lungo. Giuseppe non si vendica. Giuseppe è tradito dai suoi fratelli, che sono. Ma Giuseppe non si vendica. Giuseppe scambia con gli altri, perché crea un'attività economica fatta del rapporto con gli altri, quindi genera. Giuseppe è quello che guarda lungo, che guarda gli interessi di tutti, è quello che non si fa prendere dall'idea della penuria, anzi, usa ciò che ha, lo scarto, per rimettere in circolo e per far circolare, far partire. E l'opposto di Giuseppe è il faraone invece. Il faraone che cosa fa? Usa il suo potere per evocare il concetto di carestia, mancanza, e quindi carestia, mancanza, che cosa richiama? Il potere mio che do, quel poco che do, ma lo do io in una situazione di carestia e di mancanza, quindi rinfocola il potere individuale, rafforza il potere individuale del faraone, l'esatto opposto appunto dello sguardo di Giuseppe, del bene comune di Giuseppe. Un tempo oggi nel quale il concetto di bene comune è così astratto, è così lontano, è così ed è invece oggi, dovrebbe essere invece il concetto forte delle nostre riflessioni e anche dell'attività, in questo caso penso alla politica, rispetto alla quale appunto il voto dovrebbe essere per chi mi fa vedere un'idea di bene comune, e allo stesso tempo l'atteggiamento di ognuno di quelli che fanno politica dovrebbe essere un atteggiamento di concorrere su concetti di bene comune. Quanto invece sappiamo che tutto questo è, diciamo, un po' limitato negli atteggiamenti, quanto invece l'atteggiamento del risultato immediato per me finisce per essere ciò che abbatte, ma anche questo passa attraverso l'educazione, in gran parte passa attraverso l'esempio. E oggi riteniamo che l'esempio sia una merce non così importante. Io ritengo invece che il tempo che stiamo vivendo sia un tempo che ci richiama due parole molto importanti, che sono reputazione e esempio, che sono invece due cose che hanno un valore immenso oggi. La buona reputazione è una merce senza prezzo. Non la puoi comprare, la reputazione. La reputazione è una cosa che è senza prezzo, è fuori dal prezzario normale. Se c'è, c'è, e vuol dire che c'è stato un comportamento che ha creato questo meccanismo reputazionale. Se non c'è, non la compri. Puoi essere la persona più ricca di questo mondo, la reputazione non la compro, perché l'atteggiamento dell'esempio, dello sguardo delle persone è l'atteggiamento più importante di tutti. Sapendo che questo concetto di interesse, di bene comune, è un concetto che richiama, a mio avviso, e su questo voglio terminare, ed è un concetto complesso, difficile, molto molto difficile. È il concetto che richiama la necessità per ognuno di noi di affrontare le scelte della sua vita cercando sempre di guardare con lo sguardo lungo e non con l'immediatezza dell'interesse gretto di subito. C'è una pièce teatrale che io trovo forse una delle più straordinarie, se mi capita di andare su internet di cercarla, di vederla, ci rifletto spesso perché penso che sia alla fine il racconto e alla fine l'immagine di tanta vita che passa sotto le nostre sguardi, o tanta vita di tante occasioni, e si chiama A torto e a ragione, ed è la storia del processo che uno dei più grandi direttori d'orchestra della storia, Fritz Wengler, un tedesco, direttore della Filarmonica di Berlino durante il nazismo, il processo di denazificazione che lui subisce subito dopo la guerra da parte di un ufficiale americano che non ha idea di chi sia Beethoven e che quindi incrocia questo direttore d'orchestra della Filarmonica di Berlino, anche con delle scene anche divertenti, un po' grottesche. Ma insomma il concetto è che questo qui, l'americano, lo deve mettere in castagna per dirgli tu alla fine hai servito il Führer, l'hai fatto coscientemente e quindi devi pagare il prezzo di questa tua scelta, sei stato parte di quella vicenda. E lui che si difende porta tutti gli esempi e le esperienze di tutti gli ebrei che lui ha salvato, veramente, e quindi è tutto a torto o a ragione. Esci dal teatro e veramente non sai chi ha torto e chi ha ragione, salvo in un passaggio, che è il passaggio che a me mi ha colpito di più e che appunto mi serve in questo ragionamento, che è il seguente: quando a un certo punto l'americano gli dice, alla fine, un senso di disprezzo profondo, ma tu hai fatto tutto quello che hai fatto, hai salvato gli ebrei, sì, avrai salvato anche gli ebrei, non hai fatto il saluto a Hitler perché c'avevi la bacchetta in mano e così potevi evitare di fare il saluto, e sei stato obbligato a suonare il giorno del compleanno del Führer perché se no... Ma alla fine, gli dice l'americano, la verità è un'altra, è molto più meschina ed è molto più piccola. La verità, hai fatto tutto questo perché tu non volevi e non sopportava il tuo spirito interiore, il tuo orgoglio, che il tuo posto potesse essere preso da un altro giovane che si chiamava Herbert von Karajan e che se tu ti fossi messo da parte avrebbe preso il tuo posto. E alla fine tu hai fatto tutto questo, un compromesso dopo l'altro, perché ambizione tua personale di rimanere in quel posto e di non lasciarlo a quello, a quel von Karajan che eccetera eccetera. O trovo straordinario questo passaggio perché se uno lo può lo applica a mille fatti piccoli di vita nei quali quante volte dopo dici ma forse era meglio non accettare tutti quei compromessi, poi guarda dove mi sono ritrovato in una cosa che palesemente non mi piaceva, ma che mi ha portato fin lì. La necessità quindi, dentro tutte queste logiche, di capire sempre nella propria testa, alzare lo sguardo e cercare, ripeto, di guardare sempre, ho detto interesse comune, bene comune, ma mi viene anche di dire il senso della lunghezza della storia, delle nostre vite, e il capire che il tutto non termina con l'avvenimento di domattina, ma c'è un tempo lungo che è quello nel quale alla fine il giudizio degli uomini, il giudizio della storia, il giudizio degli eventi finisce per essere quello centrale. Noi oggi ci troviamo a vivere tutte queste vicende, a cercare di capire come stare dentro un tempo che sta cambiando, sapendo che il flusso degli avvenimenti è così rapido, avendo paura di questo spaesamento che viviamo e avendo paura che le istituzioni della politica non siano in grado di darci quelle risposte che noi vogliamo. Termina sul mio tema preferito, cioè l'Europa. Il libro che ho scritto è sull'Europa, è un libro nel quale non difendo lo statu quo dell'Europa. Penso che l'Europa debba cambiare, debba essere migliorata. Cerco di dire tante cose, tante proposte sulle quali l'Europa debba essere migliorata, ma dico con forza che il nostro futuro deve essere un futuro di integrazione europea. Migliore di questa, ma se quello viene giù, il nostro futuro sarà un futuro di disintegrazioni tutte nazionali, tutte su scala nazionale, in cui non saremo in grado di cogliere il bello di quello spot danese che abbiamo visto sopra, che ho trovato molto efficace, in cui è ingaggiare l'altro in un confronto che ti porta qualche cosa a te. Se tu non ingaggi l'altro, non hai nessuna evoluzione, nemmeno tu. Se tu ingaggi l'altro, ingaggi con l'altro, riesci a vivere queste evoluzioni. E il meccanismo oggi è un meccanismo nel quale questa Europa è per noi la sfida di tutto ciò. È una sfida che ci porta ovviamente a guardare con grandissima diffidenza e perplessità quanto sta accadendo oggi in termini di difficoltà dell'Europa a essere quello strumento caldo che dà risposte alle nostre, a noi, classi medie, classi popolari in difficoltà, spaesate, ma allo stesso tempo impauriti dal fatto che attorno a noi i demoni dei nazionalismi stanno rivenendo fuori, i muri, i protezionismi, e queste divisioni, queste separazioni sono oggi ciò che eccita gli animi, crea consenso facile, immediato, perché è vissuto dentro queste paure, dentro questo spaesamento. Ecco perché credo che sia un tempo nel quale, fatemelo dire, con la profonda gioia di aver condiviso con voi queste parole, con questa sala così straordinaria e con l'esperienza che voi fate, la capacità da parte di ognuno di noi di mettersi di impegno a cercare di capire l'altro innanzitutto, a cercare di capire se stesso, perché se uno cerca solo di capire l'altro ma non capisce se stesso, ha fatto soltanto un pezzettino di strada e non va da nessuna parte, la necessità di capire le difficoltà dell'oggi e la necessità soprattutto di capire come insieme riuscire a fare questi passi avanti. Per me l'Europa è una straordinaria occasione per applicare tutti questi concetti che ho cercato di dire, che li ho voluti oggi applicare alla vita di ognuno di noi, alle nostre famiglie, alle nostre comunità, come applicarle invece all'Europa nel suo complesso, sapendo che l'Europa ha in più rispetto a tutte le costruzioni istituzionali della storia una cosa che nessun'altra ha mai avuto. L'Unione Europea è un'unione di minoranze, nessuno è maggioranza in Europa, ed è la differenza questa qui rispetto a tutte le altre costruzioni istituzionali, dove c'è sempre una maggioranza che alla fine condivide con minoranze. La grande forza dell'Europa è che l'abbiamo fatta come unione di minoranze. Unione di minoranze è ciò che ti insegna fin dall'inizio il concetto di rispetto, di tolleranza, perché siamo tutti minoranza, nessuno può, deve imporre, ma alla fine siamo tutti minoranze. Siamo arrabbiati, soprattutto in quest'ultima fase, perché abbiamo la percezione che magari qualcuno è più grosso degli altri. Penso alla Germania, al fatto che vediamo la Germania così più importante degli altri. Ed è il motivo per il quale cerchiamo di cambiarla, cerchiamo di rimettere le cose più in ordine, ma sapendo che il nostro futuro passa attraverso l'Europa. E il nostro futuro passa attraverso l'Europa per un motivo molto semplice, che il mondo è cambiato in questi anni e che il mondo di domani sarà un mondo nel quale noi europei saremo molto più piccoli di quanto lo eravamo prima. Saremo più piccoli demograficamente, saremo più piccoli come potenza economica. Il mondo di prima, quando sono nato io, quando sono nati i miei genitori, era un mondo nel quale noi europei eravamo un quinto del mondo come numero di abitanti, un quinto. Il mondo nel quale vivranno i miei figli sarà un mondo nel quale noi europei saremo un ventesimo degli abitanti del mondo. Tutto questo in tre generazioni. Il mondo di domani sarà un mondo nel quale non ci sarà nessun paese europeo tra i primi 8, 9, 10 paesi del mondo in termini di importanza. Il mondo nel quale sono nato io, dei 7 più importanti paesi del mondo, 4 erano europei e c'eravamo anche noi. Il mondo prossimo, nemmeno la Germania sarà tra questi. La Cina, di fronte alla Cina, noi siamo, ognuno di noi è una piccola provincia della Cina, e di fronte all'India, di fronte al Brasile, voi potrete dire, ma la Cina c'aveva 1 miliardo di abitanti anche 40 anni fa e non contava niente. Sì, la vera differenza è nella rivoluzione industriale di oggi, che non è paragonabile alle rivoluzioni industriali precedenti, perché quelle precedenti avevano bisogno di meccanismi di intermediazione di strutture che facevano sì che la demografia non contasse. Oggi la demografia è automaticamente moltiplicatore, perché la rivoluzione digitale di oggi la applichi a ogni abitante, perché sono strumenti che possono essere applicati da ognuno. E se hai 1.300.000.000 di abitanti, questa moltiplicazione, che prima non c'era, oggi invece è automatica. E se la Nigeria diventerà fra 20 anni un paese che ha lo stesso numero di abitanti dell'Unione Europea intera di oggi, ci rendiamo conto di che cosa questo vuol dire in termini di cambiamenti in corso. Rispetto a questi cambiamenti, io dico sempre, lo dico soprattutto in Francia e in Germania, provocando i nostri amici francesi e tedeschi, dico sempre, guardate che i paesi europei di fronte a questi cambiamenti si dividono in due gruppi. i paesi europei piccoli e i paesi europei che non hanno ancora capito di essere piccoli. Questi sono i soli due gruppi di paesi. Perché alla fine siamo tutti piccoli in questa grande dimensione globale. Pensare che uno ce la faccia da solo non va da nessuna parte. E ognuno di noi deve giocare invece per capire come i valori nei quali siamo cresciuti, dei quali noi tante volte li diamo per scontati, non sono gli stessi nelle altre parti del mondo. Che i lavoratori debbano essere tutelati, che ci sia la parità tra uomo e donna, che ci sia la laicità dello Stato e non sia la religione a imporre le regole di vita dello Stato, che l'ambiente debba essere protetto, che il commercio debba essere un commercio libero e fair, come si suol dire, che non ci sia la pena di morte, che ci sia il diritto all'accoglienza dei rifugiati, tutti valori che sono valori per noi importanti, ma aggiungo non scontati nel mondo, tutt'altro, siamo l'unico continente dove tutti questi valori sono applicati insieme, da altre parti non è così, e aggiungo che nel mondo di domani, dove si prenderanno le decisioni, dipende se noi ci saremo oppure no. E io vorrei che nel mondo di domani i miei figli vivessero in quel mondo con l'ambiente nel quale sono vissuto io e non vivessero in un mondo nel quale si deve vivere con la mascherina come a Pechino o in un mondo nel quale il concetto di cambiamento climatico è quello declinato qualche settimana fa in campagna elettorale da Trump, che spiegava che il cambiamento climatico è un'invenzione dei cinesi. L'hanno inventato per obbligarci a mettere tasse sulle nostre imprese e quindi rendere più competitive le loro imprese e meno competitive le nostre. Io vorrei che i nostri figli vivessero in un mondo nel quale le regole dell'ambiente fossero scritte da noi europei e non scritte da cinesi e americani che le decidono sul loro standard e poi ce le comunicano a noi, applichiamo in una condizione diversa. In questo mondo vorrei che vivessimo, in questo mondo per viverci c'è bisogno di un'Europa che sia unita, abbia le spalle forti, sapendo che noi, tra noi i tedeschi, noi gli olandesi, sì, siamo diversi, ci prendiamo diversi, ma se ci astraiamo e ci guardiamo da lontano, su questi tutti i concetti che vi ho espresso fino adesso, siamo alla fine tutti uguali, la pensiamo uguale e la differenza è con altre parti del mondo che hanno un'idea diversa. Non parlo soltanto della minaccia terroristica, come drammaticamente l'abbiamo vista anche ieri a Londra, ma parlo di tutte le minacce di un altro modo di intendere la convivenza civile. Ecco perché ritengo che questa vicenda europea sia così importante, ecco perché ho voluto scrivere un libro su questi temi, ecco perché questo libro lo sto portando in giro anche per combattere, perché è un combattimento, nel senso che il grande rischio è che con l'idea dell'Europa che non va bene oggi, e non va bene oggi, semplicemente si dice la cancelliamo e ognuno per sé, molto meglio stare ognuno per conto suo. Il ritorno al nazionalismo è l'immediata reazione, conseguenza tipica dei momenti di difficoltà come quelli che stiamo vivendo, e allo stesso tempo lo scarica barile sull'Europa, la scelta più semplice che qualunque leader politico può fare. Colpa dell'Europa questo, colpa dell'Europa quest'altro, e via discorrendo di questo passo. Noi credo che dobbiamo avere lo sguardo lungo, come fecero alcuni italiani, uno in particolare 75 anni fa, quando non era mica scontato che l'Italia entrasse in Europa. Quando è nata questa vicenda francese e tedesca? Era una cosa francese e tedesca. Era francese e tedesca perché si erano fatti la guerra per tutta una vita, per vite intere. E l'Europa era nata con l'idea di due leader che si tenevano mano nella mano su un cimitero, perché per secoli e secoli sotto quel cimitero i giovani dei loro popoli si erano scannati a vicenda per spostare di 20 chilometri, 50 chilometri, una frontiera che oggi tra Francia e Germania passi e nemmeno ti accorgi che la stai passando. E sotto quella frontiera ci sono le ossa di gioventù e generazioni intere che sono morte soltanto per spostare quella frontiera. Ed è nata così l'Europa, è nata su quello. Noi potevamo esserci o non esserci. C'è stato uno che si chiamava De Gasperi, che con metà del paese che non era contro e l'altra metà che tutto sommato diceva ma perché, non la guardava come una cosa così, decise di forzare la mano e dire io penso che dobbiamo andarci. Fece di tutto, riuscì a far entrare l'Italia subito, la politica gli dette un calcio e lo mise da parte perché è la regola questa, e lui finì i suoi giorni nell'amarezza politica. Oggi è il padre della patria per il nostro paese, ma lui finì i suoi giorni nell'amarezza rispetto alla scelta più importante che un leader politico abbia fatto per il nostro paese, che ci ha garantito decenni di pace, di libertà, di prosperità, una scelta che ci ha indirizzato sulla strada giusta. E io credo che quell'esempio e quella vicenda che stiamo ricordando di fatto oggi con il 60° anniversario dei Trattati di Roma ci deve dire qual è lo sguardo lungo e quello sguardo lungo che vorremmo che avesse la politica. Grazie. I giorni della Chiesa. Questo è l'intervento del professor Enrico Letta, attualmente presidente dell'Istituto Jacques Delors, docente della Paris School of International Affairs. Enrico Letta, già ministro e capo del governo, intervenuto al ciclo Cittadella Ascolta, iniziativa delle parrocchie e del vicariato di Cittadella sul tema La speranza scartata. Grazie proprio agli amici di Cittadella Ascolta che hanno condiviso con noi e con voi, ascoltatori di Blu Radio Veneto, questo intervento. È di in regia, Mirko Cavallini in studio. A voi tutti buon proseguimento. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.